Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 22esimo numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Avevamo fatto a tempo a tirare un sospiro di sollievo per la salvezza del web sopravvissuto allo strapotere delle applicazioni nonostante il coccodrillo di Wired, ed ecco che in rete suonano ancora una volta le campane a morto. Questa volta la vittima sarebbe il blog, definitivamente sconfitto dalla pervasività dei social media. E se Facebook e Twitter sembrano una minaccia per i giornali e la televisione, cui sottraggono audience, figuriamoci per i blogger che si oppongono disperatamente al flusso compulsivo delle conversazioni tra friends, facendo leva sull'approfondimento e sulla discussione strutturata. Sono timori fondati, e se stesse davvero accadendo è una battaglia persa, ne parliamo tra pochissimo. Facciamo che hai ancora un blog nel 2011. Non lo legge più nessuno perché la statusfera si è mangiata il 99% dei contenuti della blogosfera. E dire che c'era un tempo in cui ci sembrava naturale bloggare o fame e ai lettori sembrava altrettanto naturale commentare, pure io. Però il blog lo tieni lì, come si tiene la cicletta in casa, una specie di polveroso monumento al fatto che un giorno ci avevi creduto. E sì, quel posto ogni tanto che spari via perché ti annoi è esattamente come quella stanca pedalata che fai una volta al mese. Quella che ti basta per raggiungere la soglia minima che ti fa dire agli amici, guarda che la uso. Allora, questa era la voce di uno dei blogger più importanti, uno dei primi che abbiamo avuto in Italia ad avere un seguito significativo, era la voce di Suzuki Maruti, Enrico Sola, che ha rilanciato una polemica che ogni tanto ritorna, quella della morte del blog, uno dei tanti necrologi che periodicamente ascoltiamo, rilanciati magari da un giornale specializzato in cerca di un titolo ad effetto, però questa volta c'erano proprio tutti connotati del grido di dolore. Lo chiedo subito ad Alessio Iacona, che è qui in studio accanto a me, che saluto. Beh, c'erano i connotati del grido di dolore e diciamo che la persona che lo ha lanciato è una persona assolutamente credibile, che va ascoltata in ogni caso. Secondo me ha un suo bel perché ogni tanto bisogna fermarsi e fare il punto, no? Bisogna fermarsi e farsi delle domande. E in collegamento dovremmo avere anche un altro blogger molto molto importante, Massimo Mantellini. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, beh, sì, qui siamo sicuramente tra blogger, anch'io devo dire nei tempi remoti avevo il mio blog, adesso è diventato poco più che un contenitore dei podcast di questa trasmissione, però ho l'abitudine di seguire questi opinion leader, diciamo così, che dicono la loro sui fatti principali senza dover rispondere ai vincoli, ai requisiti, alle caratteristiche delle grandi catene, per esempio del giornalismo. Però il post di Enrico fondamentalmente dice un'altra cosa. L'attenzione ormai si sposta verso le grandi conversazioni paritarie, lineari dei social network come Facebook e Twitter. In qualche modo c'è una reazione stanca, una reazione disillusa da parte dei blogger più importanti. Massimo, il tuo punto di vista? Ma credo sia vero, insomma. Le cose sono molto cambiate in questi anni, specialmente per chi ha cominciato a gestire un blog molti anni fa, per cui sono nate nuove piattaforme, altri strumenti, e quello che dice Enrico nel post è in buona parte vero, nel senso che una volta qualunque tipo di comunicazione o conversazione che si volesse aprire, quello era lo strumento che si poteva utilizzare. Oggi ce ne sono molti altri, molto più veloci, meno impegnativi, e per cui è abbastanza naturale che una quota delle parole che noi dedichiamo alla rete siano passate altrove. Ecco, Alessio ha ripreso, è una delle persone che ha ripreso il tema lanciato da Enrico in rete. Magari non si sarà capito dal tono della trasmissione, ma è il tema di cui più si è parlato in questi giorni, in questo circolo un po' autoreferenziale. Vorrei chiedere che cosa c'è di originale nel tuo contributo nella polemica, Alessio. Io ho letto il tuo post proprio adesso, me lo sono stampato. Che cosa c'è di originale? Forse non dovrei essere io a dirlo. Io ho semplicemente aggiunto al discorso quella che era la mia visione. Uno, che fare il check ogni tanto per capire qual è lo stato della blogosfera non fa mai male. Due, che se è vero, come probabilmente è vero, che il 99% di quello che Enrico definisce cazzeggio si è spostato sui social network, che sono veloci e che non consentono una grande profondità di contenuto, per me va anche benissimo. Che non sono d'accordo nel pensare che il blog stia naspando in qualche modo. Diciamo che non ha più la copertura mediatica, non genera più quell'hype intorno a se stesso che generava prima, perché altri attori, altri protagonisti sono diventati cari alla stampa, ma che è sempre lì, che è uno strumento che si è evoluto moltissimo, che serve moltissimo in molti campi, che molto spesso, sia dal punto di vista del software che dal punto di vista dei contenuti che è in grado di veicolare, e che francamente io stesso, quando ho sentito il bisogno di dire due parole per contribuire a quella che mi sembrava una discussione interessante, che tra l'altro ha funzionato e si è svolta con la stessa identica dinamica che poteva avere, che potrebbe aver avuto 5 anni fa, solo con un reach out molto più forte proprio per la presenza dei rilanci su social network, ecco, ho scelto il blog. Perché avevo bisogno di andare a fondo sulla questione. Ecco Massimo, io vorrei adesso a questo punto provare a sottoporti un ragionamento per assurdo. Se oggi qualcuno avesse voluto fare, prescindendo dal merito, un articolo celebrativo sui blog, non se lo sarebbe letto nessuno. Cioè, immaginiamo Wired che oggi nel 2011 dice i blogger sono ancora molto, sono molto importanti, non farebbe notizia. Cioè, Non credi che questo riflesso di dichiarare la morte di qualcuno risponda anche a logiche un po' di vecchio giornalismo, no? Quando si disse, per esempio, che le apps avevano ucciso internet. Beh, era un ottimo modo per fare una bella copertina di Wired, però poi, obiettivamente, mi sembra che internet stia ancora lì. No, beh, il tema della fine o della morte di qualcosa è sempre molto appetibile, per cui la fine dei blog è servita in questi anni come tema almeno una decina di volte per scatenare discussioni più o meno profonde, più o meno interessanti. È ovvio che quando qualcosa finisce poi c'è sempre qualcuno che dice che è vero e qualcun altro che dice che non è vero, per cui diciamo è una di quelle dinamiche comunicative abbastanza classiche per fare in modo che un argomento venga trattato. Non so quanto intenzionalmente, bisognerà chiederlo con Enrico questo, però il tema di fondo di oggi, che è quello di uno spostamento verso altre piattaforme, in realtà è un tema attuale, insomma, non riguarda tanto il déjà vu di qualcosa che non c'è più. Ecco, tra l'altro aggiungo che forse questo fenomeno, quantomeno del calo di attenzione sui blog, è ancora più vero per quei grandi personaggi che avevano costruito intorno al blog e alla propria rete sul blog, alla propria credibilità, addirittura un mestiere e il proprio personal branding. È il caso di Loïc Lemur, che sentiamo adesso criticato, diciamo così, un po' nella blogosfera francese per la sua brusca ritirata. En 2007, Loïc Lemur reçoit pourtant des dizaines de milliers de visiteurs chaque mois sur son blog. Incontournable, sur la toile comme à la télé, il estime que les blogs vont rapidement détrôner les médias traditionnels. 8 millions de Français lisent des blogs chaque mois, c'est plus que la presse écrite sur Internet. Et moi, je fais le pari, sans avoir de chiffres là encore, qu'il y a autant de personnes sur Internet le soir que devant la télé. Son succès est tel qu'en octobre 2007, face à l'inflation des courriers de lecteurs, Loïc Lemur délocalise et fait sous-traiter la gestion de ses commentaires à une start-up en Roumanie. Trois ans plus tard, le blog de Loïc Lemur, comme beaucoup d'autres, est à l'abandon. Sa dernière mise à jour remonte à fin 2008. Alors comment s'est dégonflée la blogosphère et que sont devenus les blogueurs ? Allora, Allora, beh, per chi non ha grande confidenza con il francese, faccio una sintesi. Insomma, Loïc Lemaire era uno di questi personaggi che poi era diventato reale, toccabile e visibile sui principali palchi dei guru della blogosfera internazionale. Era lui a prevedere il futuro. Il problema è che in queste previsioni c'era anche quella che i blog avrebbero sostituito i giornali. E poi però lui stesso in qualche modo ha dovuto ridimensionarsi e pare che gli ultimi aggiornamenti almeno del suo primo blog risalgano a fine 2008. Da allora non dico più nulla, però un personaggio che ha dovuto in qualche modo riposizionarsi. Chiedo ad Alessio, che lo ha conosciuto personalmente, come interpreti questa sua improvvisa ritirata. Ritirata, come dire, anche industriale, perché il suo blog prima era così importante, dicevano nell'inserto, che addirittura ha dovuto delocalizzare in Romania le persone che gestivano i commenti, no? Per dire che era diventato un po' come l'Huffington Post, cioè era diventato un mezzo giornale. Ma io ci vedo una tendenza che forse ci aiuta a capire qualche cosa, nel senso, molti dei grandi nomi del blog a un certo punto hanno smesso di scrivere. Lui lo ha fatto, prima sosteneva il blog con grande forza, secondo me, per una ragione banale, essendo responsabile per l'Europa di Six Apart, che al tempo era una bella corazzata che vendeva servizi di blogging professionale alle aziende, aveva tutto l'interesse a sostenerne l'importanza, il futuro e la... come posso dire, il fatto che andasse, avrebbero sostituito i giornali perché voleva vendere ai giornali il servizio, quindi aveva tutto l'interesse a farlo. Poi ha cambiato interesse, poi ha aperto la sua piccola startup, si è spostato in America, produce il più importante evento europeo sul web, quindi ha cambiato interessi e si è allontanato dal blog. Ma questo è successo a tanti, perdonami, è successo in tanti casi, nel senso, il blog è servito finché è servito come strumento a queste persone per raccontarsi, per costruirsi una figura, per imparare, perché no? Dopodiché, quando ha finito il suo scopo, hanno cambiato, hanno smesso. Ecco, questo mi ricorda un po' il tempo dei podcast, no? Io ero uno dei primi podcaster amatoriali e quando chiusi il mio primo podcast importante, Pendo Deliri, ci fu una sorta di, non lo so, di cahier de doléances, di gente che si lamentava con lo stesso tono con cui ti dispiace che venga chiusa una radio, però... effettivamente con questi nuovi strumenti che hanno un inizio e una fine, in realtà bisogna vedere questi oggetti a che cosa servono. Molte persone hanno usato i blog per cambiare la propria vita personale nel mondo reale, e forse anche il caso tuo, Massimo. Che cosa è cambiato nella tua vita reale da quando guarda, mi dispiace smentirti, però le ragioni per cui io ho aperto un blog tanti anni fa sono le stesse per cui lo aggiorno adesso, nel senso che lo trovo uno strumento molto come dire, intelligente, di relazione con altre persone, per focalizzare su alcuni temi. Non ho mai assolutamente considerato che potesse essere il trampolino verso qualcos'altro, semplicemente non, se poi questo in qualche misura può essere successo è una specie di effetto parallelo, ecco. Perché tra poco sentiremo un altro esempio anche italiano di chi tuttora però continua a coltivare il blog, ne ha aperti anche tanti altri, però fondamentalmente per l'evoluzione, diciamo così, delle proprie attività nel mondo degli atomi, come direbbe Luca Conti. Comunque quello di cui tu parlavi, Massimo, è un effetto collaterale assolutamente piacevole che avviene quando uno ha qualcosa da dire di sensato. Tu sono 10 anni che scrivi tutti i giorni. Anzi... No, certo, ma questo può succedere come può anche non succedere. La questione principale è che se è uno strumento di relazione, ma anche con se stessi da un certo punto di vista, poi continua ad avere un significato, sia che ci siano 20 o 30 lettori piuttosto che qualche migliaio, per cui questo lo è dimostrato anche dal fatto che tutto sommato a me interessano anche altri strumenti di relazione sociale, ma il blog per me continua ad essere, diciamo, il punto centrale della mia esperienza di relazione di rete. La tua casa in rete, praticamente. Sì, esattamente. Credo che gli altri strumenti che abbiamo imparato a usare in questi anni, da Twitter a Facebook, non siano nemmeno lontanamente parenti da un punto di vista della capacità di costruire una simmetria con persone simili a se stessi. Sono molto più, come dire, vaporosi e liquidi, per cui tutto si spande un po' altrove. Ecco, Twitter è stato immediatamente catalogato, almeno da chi ne fa un uso molto molto intenso, come addirittura un primo esempio di nuovo broadcast, quindi non più uno strumento di conversazione a due vie, che proprio forse per questa sua natura di nuovo sistema di broadcasting, cioè di modo per informare larghe masse senza necessariamente avere un canale di ritorno, ha trovato una sua ragion d'essere e sopravvivere, diciamo, alla tendenza onnivora di Facebook, che invece tutti quelli simili in qualche modo se li è mangiati. Sì, io sono d'accordo su questo, anche se tutto sommato mi è dispiaciuto quando a suo tempo loro, col senno di poi, giustamente cambiarono molto orientamento, perché nei primissimi tempi Twitter era una piccola piattaforma di relazione sociale con persone molto vicine a se stessi, quindi infatti a me piaceva molto per questo. Nel momento in cui è diventato uno strumento, una specie di feed informativo, molto basato sugli Stati Uniti, si è sedimentata molto questa logica per cui ci sono una serie di emittenti molto forti, che sono poi magari le star della televisione oppure i grandi network informativi, e c'è un audience, insomma è un tipico modello broadcast informativo che peraltro funziona, insomma. Io provo ad immaginare, diciamo così, un ruolo evolutivo dei blog come il tuo, dei blog insomma più seguiti come Piero Lorana e Giglioli, come lo stesso blog di Alessio. Mi pare di capire che grazie all'agilità dello strumento e al fatto che avete una credibilità, perché si dà per scontato che seguite certi temi fin dall'inizio senza dover attendere la loro notiziabilità, che molti trend voi siate in grado di coglierli e interpretarli prima, per esempio, dei giornali, no? Il mestiere, per esempio, del giornalista informatico ormai è diventato quello di monitorare i grandi blogger, sia italiani che soprattutto anche del mondo anglosassone. A me capita molto spesso, quando prendo un inserto magari di un quotidiano, insomma di un grande giornale che parla di internet, di trovare dei temi che 3-4 giorni erano già stati anticipati sui blog. Pensi che questa possa essere uno sbocco naturale? Ma io credo che questo succeda. Non so, onestamente, insomma, è una sorta di responsabilità così indiretta che probabilmente c'è. Nello stesso tempo, nel momento in cui alcuni temi che tu hai pensato fossero interessanti diventano poi di più ampio dominio, questo è soltanto un aspetto positivo. Non so se questo faccia parte di una sorta di reputazione che ti viene attribuita, non credo, penso che semplicemente i blog oggi siano diventati per il sistema informativo una fonte, come possono essere le agenzie di stampa, per cui si trova un tema che magari diventa, come dici tu, notiziabile, ecco. Quindi non lo associerei a un'idea di autorevolezza, mi sembra semplicemente che siano dei luoghi nei quali trovare temi che magari sono originali, ecco. Non darei un'importanza di tipo intellettuale più di tanto. Ma io aggiungerei una cosa, che uno degli elementi chiave dell'evoluzione del blog come strumento e come mezzo di comunicazione da quando è comparso a oggi è che oggi, forse molto più che negli anni passati, spesso la figura che descriveva Antonio, cioè quella del blogger che osserva un settore, che ne è profondamente informato, e del giornalista esperto che lavora sui media, sempre più spesso coincide. È la stessa persona che, quando vuole uscire con una certa velocità o quando vuole produrre determinati contenuti più personalizzati, più vicini a quello che pensa, più liberi, usa il blog, e poi invece ha comunque la possibilità di approfondire e scrivere in un altro modo, con altri crismi, per i giornali. Quindi forse anche questo è cambiato, cioè sono sempre di più i giornalisti blogger, tanto per tornare a un'altra bella e antica polemica fantastica che c'è. Anche se non siamo ancora arrivati al livello degli Stati Uniti, dove i blogger, come diceva questo articolo di Repubblica di Rampini uscito circa una settimana fa, vengono normalmente accreditati e addirittura influenzano le scelte del governo, della Casa Bianca, perché si dà per scontato che abbiano una grande influenza. Massimo, una battuta per chiudere il nostro collegamento. Ma credo che questo succeda, ma in realtà penso sia una conseguenza semplicemente della mentalità strettamente quantitativa che negli Stati Uniti si applica un po' a tutte le cose, per cui nel momento in cui Andrew Sullivan o qualcun altro fa 1 milione di utenti al mese, diventa automaticamente interessante nel momento in cui esprime qualche concetto. Quindi più che una questione, ancora una volta, che riguarda i temi o la capacità di analisi, che certamente poi c'è, non è che sto dicendo che non è così, è una conseguenza del fatto che c'è una capacità di sollevare interesse. È un po' la ragione per cui Huffington Post, che in realtà non è un giornale, è diventato un giornale, ecco, insomma. Quindi nel momento in cui si riesce a farsi largo nell'attenzione dei lettori, poi dopo ovviamente si entra nelle stanze della comunicazione. Va bene, allora noi ringraziamo tantissimo Massimo Mantellini per il suo intervento. Ricordo il suo blog, che è ancora fonte di notevole ispirazione per tutti noi, www.mantellini.it. Ciao Massimo. Grazie e vi saluto tutti. La mia vita ha cominciato a cambiare più o meno 10 anni fa, quando ho fatto la prima tesi, una delle prime tesi su internet, poi ho trovato un lavoro in una web company e poi 4 anni fa ho aperto il mio blog. All'inizio doveva essere una passione, un gioco, una cosa dove io raccontavo quello che facevo, andavo a cena fuori, i locali, gli eventi di Firenze. Poi la cosa ha preso piede, hanno cominciato a seguirmi un sacco di persone, io ero anche molto sorpresa di questo, che le persone cominciassero a scrivermi, a commentare, a leggere. Addirittura un giorno mi è arrivata anche una richiesta da parte della televisione di Stato giapponese per fare delle riprese su Firenze e mi hanno mandato in diretta televisiva in Giappone perché gli piaceva quello che io facevo sulla città. Oltre a questo ci sono stati eventi per i miei lettori, le blog cene, cioè i miei lettori hanno cominciato a desiderare di incontrare me, ma anche fra di loro, perché hanno cominciato a conoscersi e a creare una piccola community di appassionati di ristoranti, di locali, di aperitivi, ma anche di temi più importanti, architettura, traffico, ZTL, temi di chi vive la città ogni giorno. Quindi è chiaro che non è solo una questione ludica, ma ci si trova un terreno dove poter scambiarsi informazioni, dove poter comunicare, dove poter condividere cose belle e cose brutte del vivere a Firenze. E a me mi hanno preso come una specie di guida, mi chiedono di tutto, dove possono portare a cena la fidanzata per l'anniversario, dove possono trovare le cose più disparate, le domande più assurde. Queste sono tutte richieste vere arrivate tramite le statistiche. I numeri sono abbastanza impressionanti, perché attualmente siamo sulle 2000 persone al giorno e in 4 anni ho fatto circa quei numeri lì, insomma, mi spavento anch'io. Ogni tanto qualcuno mi ferma e dice: ma tu sei quella lì del blog? Io ci provo a cambiare look, a farmi liscia, diciamo, ogni tanto mi riconoscono, tranne ai miei ristoratori, che quelli sono gli ultimi, quelli non sanno nemmeno cosa sia un blog, purtroppo. Io non pensavo di poter influenzare così tanto in queste cose il giudizio delle persone, invece piano piano, conoscendomi, leggendomi ogni giorno, le persone hanno cominciato a fidare di me, a crearsi un rapporto di: ho provato, avevi ragione, ebbene ok, lo riprovo, mi fido di quello che dici. Fino a che mi è arrivato il sindaco, mi ha detto: senti, te che ti piace tanto Firenze, perché non ti candidi? E ho fatto questa esperienza nella lista civica, non sono stata eletta, però è stata comunque una sfida grossa, mai avrei pensato di fare una cosa in campo politico, ed è stato tramite il blog. Un anno e mezzo fa, finalmente, dopo aver acquisito esperienza e una certa passione in questo settore, ho deciso di rinunciare a un posto fisso, licenziarmi e mettermi in proprio, fare la consulente di web marketing. Questi sono alcuni dei clienti con cui collaboro o come consulente. Gli ho fatto aprire il blog, perché comunque per me è attualmente uno degli strumenti migliori per comunicare. Poi è arrivato Facebook e tutti: ah, i blog sono morti, tutti su Facebook. Io, insomma, ci sono entrata perché comunque devo un po' studiarli questi strumenti, ma è evidente che ha delle dinamiche diverse. È buffo che le persone che non commentano sul mio blog, che sono anonime, di cui non so nulla, su Facebook mi dicono tutto, mi dicono come si chiamano, che gusti hanno, vedo la foto. Finalmente posso sapere chi sono i miei lettori, qui ci sono i numeri, quindi alla fine anche su Facebook ho trovato uno strumento di interazione. Sono strumenti diversi, io continuo a amare di più i blog, però come ho scritto all'inizio, tollero Facebook, basta. Allora, questa era la storia di Elena Farinelli, raccontata dalla sua viva voce nel corso di un Ignite all'ultima, credo, edizione del Toscana Lab. Una persona che, come accennavamo prima, diciamo è uscita dal mondo dei beat, dal mondo anche dell'influenza nei circoli autoreferenziali, e ci ha costruito sopra l'evoluzione professionale della sua vita, come fanno in molti. E adesso dovremo avere in collegamento la stessa voce che abbiamo sentito nell'introduzione, quella di Enrico Sola, meglio noto come Suzuki Maruti. Ciao Enrico! Buongiorno a tutti! Allora, Enrico è la persona che ha lanciato, non dico il grido d'allarme perché anche questa è una figura retorica, diciamo che ha rilanciato questo tema dei blog che perdono attenzione rispetto ai social network. Elena nel suo speech raccontava di come su Facebook sia crollata la barriera della privacy, fondamentalmente. Cioè, prima c'era questo mondo strano di doppie identità, di gente che lasciava commenti anonimi sui blog, mentre su Facebook tutti entrano come col nome e cognome. Ma qual è stata la magia di Facebook che ha permesso a tutti di apparire appunto con la loro vera faccia, secondo te, Enrico? Bisogna pensare una cosa, che Facebook di fatto è un social network a cui partecipano davvero tutti, perfino persone che non hanno praticità con tutto il resto della rete, gente che non sa navigare. Il muratore che mi ristruttura la casa mi dice: no, io non uso internet, uso Facebook. È una frase emblematica. Ma cioè, per molti è una specie di sistema operativo alla fine. Sì, alla fine sì, è internet per principianti, o comunque quella specie di kindergarten dove si richiude chi non ha voglia di andare altrove, e chiaramente sfrutta da un certo punto di vista l'ignoranza forse di una parte di pubblico, che non ha nessun problema a mettere le fotografie, i peggiori fattacci loro, perché tanto non sanno, non si sono posti il problema, ha catturato un pezzo di pubblico televisivo addirittura. E tutti partecipano così. Io noto che i più attenti, che ne so, persone che magari sono in rete da qualche anno, hanno un uso molto più moderato di Facebook, non solo, ma hanno impostazioni della privacy diverse. Come ha detto giustamente Elena Farinelli prima, lo uso ma non mi fido molto, cerco di farmelo piacere. Io ho lo stesso approccio, credo che la magia sia tutta lì, hanno preso qualcuno che non era stato avvertito. Vediamoci anche qualcosa di positivo per una volta in Facebook. Io ho notato una cosa, ho degli amici, diciamo, non propriamente ad altissima alfabetizzazione informatica, che sono, che so, i genitori delle amiche di mia figlia, no? Quindi sono, che so, delle signore di 30 anni che pubblicano magari le loro foto delle vacanze in costume da bagno. E i commenti su Facebook a queste fotografie in costume da bagno sono di altre amiche che fanno complimenti: stai benissimo, sei magra, sei carina, eccetera. Se le stesse foto fossero pubblicate su Friendfeed, immediatamente le bolleremmo come piastrelle, cioè come voglia di esibire, diciamo così, il proprio corpo. Quindi forse, sì, d'accordo, la famosa malizia del blogger della prima ora va bene nel proteggere la privacy rispetto al mostro Facebook che entra nei gangli delle nostre vite, però anche un risvolto, lasciami dire, un po' borderline. Sì, assolutamente sì, perché in Facebook c'è di mezzo quel fattore che si chiama, uso tante virgolette, amicizia, quello che su Friendfeed, che è un fenomeno tutto nostro, non c'è. Friendfeed è di fatto una specie di sputo in un piatto in cui ho mangiato per anni, è una specie di accolita dei rancorosi, o un'area per addetti ai livori, in cui ci si trova per così sparlare, comunque in cui la cattiveria, anche quella spicciola o l'esibizione della vanità intellettuale, ha un po' di spazio. Nell'altro mondo, cioè in Facebook, davvero ci sono relazioni di fiducia, amicizia, conoscenza, ci sono i circoli, c'è una comunità che è centrata intorno a ciascun individuo. La differenza è notevole. Facebook è una tua piccola casa, quindi chi ci gira intorno un po' te lo scegli. Friendfeed vuol dire andare da un'altra parte, che non è casa tua, ti devi vestire bene, devi far bella figura e tutti si sentono autorizzati a sentirsi un po' padroni di casa e a bistrattare chi passa di lì. Diciamo, ti devi vestire bene o anche vestire poco, a seconda dei casi. Enrico, volevo chiederti, ma tu perché te ne sei andato da Friendfeed? Non ti consideri più un addetto ai livori? No, continuo a esserlo, mi è arrivato. Il motivo per cui ho cessato di usare Friendfeed è semplice. Mi sono accorto che ne avevo abusato. E mi portava via troppo tempo, mi portava via peraltro in un momento in cui avevo bisogno di tempo da dedicare alla vita 1.0, quella che facciamo tra un aggiornamento di status e l'altro, e mi ero accorto che stavo diventando una persona peggiore, perché i peggiori comportamenti che ho avuto nella vita li ho avuti in rete e li ho avuti su Friendfeed. Ho detto basta, fermiamoci, mi ricordo avevo 3500 amici su Friendfeed, ho detto selezioniamo le persone che contano realmente da frequentare, oppure quelle con cui mantenere un contatto, che non so, di piacere, di frequentazione intellettuale. Alla fine ho ridotto da 3500 passa persone a 20-25 persone che effettivamente mi ha fatto piacere conoscere lì sopra. Vivo benissimo senza, ma è un limite mio. Credo che se uno si controllasse un po' di più potrebbe usarlo bene, molti lo fanno. Il fatto che non ti sento da qualche tempo per me a questo punto è un messaggio chiarissimo. Detto questo, ti volevo chiedere se hai provato, diciamo, la stessa cosa rispetto al blog, dove tu eri solito scrivere dei post molto lunghi, molto ben argomentati, che ricordo io mettevo da parte per leggerli la sera con calma, perché anche solo leggerli richiedeva un certo periodo di tempo, insomma. Infatti girava voce che i produttori di Monitor mi pagassero in segreto, perché ve ne facevo comprare di nuovi a furia di consumarli coi post chilometrici. Due cose, innanzitutto, questa piccola nota personale, Alessio, io in realtà continuo a frequentarti, nel senso che leggo il tuo blog, anzi ultimamente ci siamo addirittura commentati. Quindi sei a Roma si direbbe che ci stai mettendo le pezze, questa perdonami, ma è una radio romana, quindi. No, ma non è vero, in realtà. Poi mi chiamo Sola di cognome, quindi sposo, in realtà la magia che tu hai creato con quel post che ha scatenato questo discorso è stata che in un giorno io, te e Massimo ci siamo ritrovati a scriverci, a commentarci con altre persone di nuovo sui blog, con comunque i rilanci su Facebook e Twitter, quindi abbiamo rinnescato una vecchia dinamica che era un po' che non funzionava e l'abbiamo vista comunque potenziata dalle dinamiche nuove. Per me era lo stato dell'arte, ecco, comunque ti stavo prendendo in giro. No, ma è vero, è stata una bellissima giornata di revival, ha fatto molto piacere farlo, però vorrei che avessimo coscienza che era quello. Vi dirò, il motivo per cui invece sul blog ho diradato col tempo ha poco a che fare con le tecnologie e molto a che fare con una considerazione che parte dalla politica. Io vengo da una formazione per cui ciò che scrivi serve a. Da militante per me bloggare era un modo per lottare. Arlo Guthrie avrebbe detto era un modo per sparare i fascisti. E quando mi sono accorto che era del tutto inutile, che per quanto il mio contributo microscopico non spostava non solo un voto ma neanche mezza intelligenza, ho pensato che poiché in Italia non c'è più speranza, questo è un pensiero che covo tuttora, era assolutamente inutile prendersi la briga di cambiare le coscienze al prossimo, di stimolare un po' di curiosità. Quindi, se notate, scrivo molto poco di politica proprio perché non ci credo più. Ecco, però al di là del fatto di intervenire con idee nel dibattito politico, esercitare una forma di ecologia dell'informazione, che sì, probabilmente è una battaglia persa, almeno da parte dei blogger, però ti chiedo, almeno lottare per la conservazione della diversità dei contenuti, no? Rispetto a un mondo che ruota ancora intorno ai cosiddetti blockbuster, dove per blockbuster intendo anche i grandi giornali, i telegiornali, gli spettacoli televisivi che tutti vedono, non solo i film o i dischi. Cioè, ancora in questo internet può giocare un ruolo di almeno ampliamento dello spettro dell'esperienza di fruizione delle persone? Beh, assolutamente sì. Cioè, ci credo, non lo faccio, ma perché poi la pigrizia vince su tutto e sono ancora nella fase, cioè sono un po' offeso con l'universo, come credo il 99% dei militanti di sinistra su questa terra, tutti e 10. Il problema è che da sempre l'informazione fatta dai singoli cittadini, la trasmissione della cultura, è sempre stata una grande lotta contro la parte più mainstream della sovrastruttura. Una volta si lottava contro l'informazione dei giornali, poi contro quella dei telegiornali, poi abbiamo smesso di lottare, abbiamo iniziato a fare solo testimonianza di un altro mondo è possibile. Sto citando tutta una serie di ondate di cultura della controinformazione più o meno antagonista. Ci credo ancora, ma credo sia una realtà. Forse il caso di Wikileaks, dico una cosa banale, è la dimostrazione che quella cultura altra, e altra di qualsiasi colore, di qualsiasi segno, ha iniziato a emergere in maniera anche un po' minacciosa. Considero un buon segno che le informazioni vengono considerate terrorismo ogni tanto, con Wikileaks è successo, perché segnalano probabilmente la loro importanza, forse il loro potenziale su chi legge, chi consuma. Ti volevo chiedere una cosa, senti, io ho chiuso il post con le mie piccole considerazioni rispetto a questo tema che trovo grande, interessante, qualcuno l'ha definito trito ritrito, ma secondo me ogni tanto appunto bisogna farlo. Pensando, riflettendo sul fatto che forse più che il blog, che secondo me è uno strumento ormai maturo, destinato a diventare tante cose, quello che che non è sopravvissuto, quello che sta morendo è il blogger in alcuni di noi, che hanno, come hai raccontato tu, per te, per tante ragioni, perso la voglia o il piacere, o per il momento non hanno più le ragioni giuste per giustificare uno sforzo come questo. Secondo te? Io credo che sì, da un lato parlare della morte del blog è come quei litigi che nelle coppie si fanno ciclicamente e che servono un po' a riconfermare la coppia e a volte a correggere un po' il tiro, cioè sono costruttivi, sono utili, quindi si dice che parlare di morte allunghi la vita. Credo sia successo esattamente questo al blog. Credo sì che siano un po' mancate, che sia un po' venuta a mancare la voglia, ed è mancata perché è successo a tutti quanti contemporaneamente. E non nascondiamoci che chi scrive in rete, in giro, chi scrive per un pubblico. Se manca il pubblico, se manca per di più un pubblico che commenta, che arricchisce quello che scrivi, che ti fa fare un ragionamento, che ti fa litigare, ti fa cambiare idea, dopo un po' ti chiedi, la domanda è la solita, quella che ci facevano tutti quelli che non avevano un blog: chi ve lo fa fare? E la gente si chiede dopo un po' chi me lo fa fare, e poi la vita ti risucchia. Posso Vabbè. Però essere ottimista. Sì, vabbè, ho visto che il tuo post finisce in modo ottimistico. Chiudiamo anche la trasmissione con una nota di ottimismo. Ci provo. Sono convinto di un po' di cose. Provo a guardarla un po' grande e esco un secondo dall'Italia. In questo momento mi viene da pensare che in un posto tipo la Cina o l'India ci siano una quantità di persone che non stiano vedendo l'ora di aprire il loro primo blog, o chissà come si chiamerà allora. È tutta informazione, sono tutte intelligenze, sono tutte identità interessanti che ancora devono conquistarsi il loro pezzo di mondo, di notorietà e di sfera di influenza. La vedo come una cosa buona, anche se ci presentano sempre la Cina come una minaccia. Penso che là in mezzo c'è tanto di bello, che è talmente grosso, i cinesi sono talmente tanti, che qualcosa verrà fuori di bello assolutamente. Va bene, allora noi ringraziamo Suzuki Maruti. Vuoi ridire l'indirizzo del tuo blog, così se ancora posti qualcosa possiamo andare a commentare? Guarda, www.enrico-sola.com. Vabbè, però cercate Enrico Sola su Google, a Roma sì. Non si dimentica. È più facile, metteremo anche il link sul blog di Conversational, che lo ricordo è www.conversational.it, dove potete trovare tutti i podcast delle trasmissioni. Io ringrazio ancora una volta Alessio Iacona, che è venuto a trovarci in studio, e vi do appuntamento alla prossima settimana.